Welcome to the globalized ghost town. This is Argentina. It could be anywhere. It could be anywhere. Anywhere. Back in the U.S. Back in the U.S. Back in the U.S. Ho scelto di scendere in campo. Andiamo in campo. Lavoratori. C'è scritto che lei è un colluso con la mafia, senatore. Poi dici che uno si butta a sinistra. Italia. Un nuovo. Proletaria. Miracolo. E fascista. Italiano. Poi dici che uno si butta a sinistra. Voglio fascista. Immigrati. A me faccio. Io faccio. A soccorrere, mio amico, soccomunista così sa. Soccomunista così.